Vorrei pregare il professor Moreschini, che per amicizia e per conoscenza certamente è più competente di me, però se volesse fare Ma una parola di presentazione del non me professor l'aspettavo, Morelli. ma farò quello che Sì. posso, naturalmente. Di Norelli ho già parlato un'altra volta e ne parlai molto bene all'inizio perché si laureò con me circa quasi 30 anni fa, questo sta a testimoniare la mia vecchiaia, appunto. Si laureò, è stato mio allievo a Pisa, ma come tutti gli allievi intelligenti, abbandonano immediatamente il professore e vanno per la loro strada. Così ha fatto appunto Norelli, che si laureò su Ireneo e ha continuato questa indagine sul cristianesimo primitivo, prima studiando a Bologna all'Istituto di Scienze Religiose di Alberigo. Correggimi se non ricordo bene le cose, poi anche dopo vari anni si è trasferito a Ginevra nella università o nella facoltà, dimmi tu con precisione quale facoltà, qual è il titolo preciso. Ma nella facoltà di teologia, in effetti. Ecco, e a parte queste indicazioni accademiche, Norelli, studioso in modo particolare del cristianesimo antico e dell'ambito, come dire, cristiano inteso in senso più ampio, con tutto il riferimento allo gnosticismo e agli apocrifi, e collabora, se non mi sbaglio, con il professor Bovon circa sul corpus, alla preparazione del corpus dei testi degli apocrifi presso il Corpus Christianorum, insomma, presso l'editore Brepols, naturalmente, di Tournus, e tra gli apocrifi che più lo interessano e che più ha studiato è l'Ascensione di Isaia, di cui ha pubblicato recentemente presso le Deoniane, mi pare un saggio molto denso e pieno di cultura. Penso che possa bastare questo come prima presentazione, così sui due piedi. Ringrazio il professor Moreschini. L'unico appunto che farei è che ci hanno invecchiati entrambi di 10 anni esatti, ma a parte Ah, questo. io è un rischio che io non dovrei correre, poi non dovrei correre più oltre perché è grave per me. Comunque, sì, sono andato dopo a lui se ho potuto cominciare e avanzare in questo ambito che mi appassiona molto. E vorrei ringraziare anche Monsignor Roger e Don Zani e il professor Menestrina di avermi invitato qui. Per me, appunto, si sono evocate antiche amicizie, antiche consuetudini. Per me, devo confessare la mia grande vergogna, che è la prima volta che vengo nell'Istituto di Scienze Religiose. L'unica cosa che posso dire è che mi auguro che non sia l'ultima, ma insomma. Ecco, io volevo così, ecco, discorrere un poco con voi di un tema che appunto utilizza testi naturalmente del cristianesimo antico, ma che è in questo caso piuttosto un tema di storia della teologia o di storia delle idee, perché credo che poi è sempre qui, cioè è in queste grandi poste in gioco poi che va a sboccare il nostro interesse per il cristianesimo delle origini. Io avevo previsto di parlare circa 3 quarti d'ora, non so se avremo il tempo per farlo, questo è un po' il tempo canonico per una lezione da noi, cercherò ecco, di essere breve. Ecco, la questione che, come avete forse visto nel programma, abbiamo posto come titolo di queste considerazioni, cioè in come e in che modo i cristiani hanno scelto un Dio che giudica, può sembrare un po' strana. L'idea, in primo luogo, che i cristiani abbiano scelto il loro Dio. Il teologo cristiano, così come il teologo ebreo, non si esprimerebbero probabilmente così, perché pensano che non è l'uomo che sceglie il suo Dio, ma è Dio che sceglie l'uomo, che elegge l'uomo o la donna e li chiama alla fede. Naturalmente si potrebbe ammettere questo modo di parlare per dire, ad esempio, che l'essere umano è libero di scegliere tra Dio e i falsi dei, cioè gli idoli, quali che siano naturalmente, che dunque è libero di scegliere se vuol seguire l'appello dell'uno o degli altri. E tuttavia non è questo l'oggetto di questa conversazione, ma è l'adozione di una immagine di Dio. Se voi volete, questa formulazione del titolo è una provocazione che ha come scopo quello di ricordare in quale misura gli esseri umani sono responsabili dell'immagine che hanno del loro Dio. questo è qualcosa che in generale ognuno è pronto a ammettere per le ragioni degli altri, ma molto meno per la propria nel caso in cui ne abbia una. E in secondo luogo, quello che può sembrare anche strano in questa formulazione è il porre questa eventualità di un cristianesimo in cui Dio non giudicherebbe. Da un capo all'altro, almeno fino a noi della storia del cristianesimo, la nozione di Dio sembra integrare in maniera ovvia quella del giudizio che Dio esercita. In fondo si pensa a prima vista, se Dio non fosse giusto, se non rendesse a ognuno quello che gli spetta, che Dio sarebbe? E ancor più, se non ricompensasse i buoni e non punisse i cattivi, questo Dio potrebbe ancora funzionare come Dio, vale a dire orienterebbe gli uomini verso il bene allontanandoli dal male? Certo, la nozione di un Dio giudice si installa al centro di tutta la storia del pensiero cristiano e rappresenta anche una parte integrante del giudaismo da cui il cristianesimo è nato. Eppure, ecco, io vorrei ricordare qui che c'è stato nel secondo secolo, anche nel terzo in parte, ma soprattutto nel secondo, un'epoca in cui il dibattito su questo tema è stato molto forte e anche aspro e in cui numerosi cristiani hanno creduto a un Dio che non esercita affatto il giudizio. Non si tratta quindi qui di dirsi che la storia avrebbe potuto svilupparsi diversamente, ma si tratta di comprendere meglio il fenomeno storico del cristianesimo rivisitando, per così dire, certe possibilità che non si sono imposte, ma che rivelano appunto delle potenzialità esistenti. Naturalmente mi situo dal punto di vista storico, non dirò che una di queste opzioni era migliore o era più fedele a un'essenza del cristianesimo piuttosto che l'altra, ma cercherò, ecco, di comunicare a voi alcune implicazioni di queste diverse posizioni in gioco. In materia di religione greca io non sono competente, ma per quanto io ne so, l'esercizio della giustizia da parte della divinità è presupposto. Il solo che ci viene in mente per averla negata è uno sforzo generoso di liberare gli esseri umani dal timore legato alla religione è, come sappiamo, Epicuro. Però, per quanto io ne so, non è da Epicuro che è venuto nel cristianesimo il dibattito sull'attribuzione di ricompense o di punizioni da parte di Dio, anche se, come vedremo, il nome di Epicuro è stato evocato in maniera polemica durante questo dibattito. Quello piuttosto che ebbe una parte in questo fu probabilmente la tradizione platonica, che era preoccupata nella fase che noi siamo soliti chiamare il medio platonismo, era preoccupata di salvaguardare la trascendenza assoluta di Dio e lo faceva introducendo un secondo Dio come creatore e responsabile di questo mondo. In particolare, possiamo ricordare, nel secondo secolo della nostra era, Menio di Apamea in Siria distingueva il primo Dio, che era il padre, il buono e che si trova al di sopra di ogni attività, e il secondo Dio, o Demiurgo, vale a dire il creatore, generato dal primo e che è buono solo per partecipazione al padre, il quale padre lui invece è la bontà stessa. Ed è questo Demiurgo che, se possiamo così dire, si sporca le mani con la materia, creando il mondo e dirigendo il mondo con l'aiuto della facoltà critica, il criticon, che sviluppa a partire dalla contemplazione del padre. Si potrebbe mostrare, ma altri qui lo farebbero molto meglio di me, che il problema che ispira Numenio preoccupava tutta la tradizione platonica a partire da Platone stesso. Ma in limito, ecco, a ricordare che nel secondo secolo la riflessione su Dio era senz'altro disposta a distinguere un Dio supremo, la cui essenza è la bontà assoluta, e un secondo Dio, il quale non è buono per essenza e che è invece il creatore è il responsabile dell'ordine di questo mondo. E vedremo subito che cosa poteva produrre questa prospettiva una volta messa a contatto con la rivelazione cristiana. Il cristianesimo, nato dal giudaismo, nato come un ramo, una direzione del giudaismo, ne ereditò la fede in un Dio che salva, ma che anche esercita il giudizio e che punisce gli esseri umani ribelli. Gesù stesso, nella misura in cui possiamo conoscerlo, per quello che può essere stato storicamente, si era proposto come inviato da Dio per manifestare l'amore di Dio che chiamava gli uomini indipendentemente dalla loro condizione di peccatori. Tuttavia, e questo anche se i discorsi evangelici sul giudizio finale, che noi troviamo appunto nei Vangeli, sono senza dubbio stati rimodellati dai cristiani dopo Gesù, niente ci autorizza a pensare che Gesù non credesse al giudizio di Dio, al giudizio finale in particolare. L'atto di misericordia per il quale Dio lo aveva mandato a portare il perdono ai peccatori non eliminava la giustizia di Dio e il giudizio di Dio. Il quadro apocalittico della prima teologia cristiana, la cornice apocalittica se vogliamo, insisteva sulla venuta imminente di Dio come giudice universale. E i primi cristiani, come ben sappiamo, attribuirono questa funzione di giudice a Gesù stesso, identificato con il figlio dell'uomo della tradizione apocalittica. Paolo, da parte sua, aveva incentrato tutta la sua riflessione teologica sul rifiuto di ammettere che l'osservanza della legge in quanto tale può salvare. Secondo noi la giustizia di Dio non è la retribuzione secondo le opere, a proposito della quale parla però di giudizio di Dio, ma la giustificazione del peccatore. Certo, Paolo naturalmente non negava il giudizio di Dio, non più della comunità giovannea, per esempio, che tuttavia lo aveva, se vogliamo così dire, demitizzato nel suo Vangelo. Tuttavia, ecco, una certa lettura di Paolo, come pure certe potenzialità della traiettoria teologica del giovannesimo, nel cristianesimo delle origini, potevano condurre a opporre il messaggio di Gesù, che in nome di Dio offriva la salvezza al peccatore, a opporlo all'idea di un Dio che esige preliminarmente il rispetto della sua legge e che punisce quelli che non si conformano a questa legge. La bontà e la giustizia di Dio, quindi l'una e l'altra, sono affermate lungo tutta la tradizione biblica ebraica, in modo tale che la misericordia è molto potente nei confronti di coloro che temono Dio, ma non elimina affatto la sentenza finale. E, come sappiamo, la tradizione rabbinica riuscì a far coabitare in qualche modo le due cose, sviluppando la dottrina delle due middot, dei due attributi di Dio, la giustizia e la misericordia, che nei testi rabbinici sono spesso presentati in dialogo, un dibattito polemico tra loro. Per lo più è la giustizia che si lamenta presso Dio quando Dio pare esagerare con la sua misericordia. I rabbi leggevano i due attributi nella Bibbia, legando l'attributo della compassione al tetragramma e quello della giustizia all'altro nome di Dio, cioè Elohim. All'inizio della nostra era, il platonista ebreo Filone, platonico ebreo Filone di Alessandria, presenta la stessa dottrina, benché il legame con i nomi di Dio sia inverso in questo caso. Ma non è qui che mi devo soffermare, volevo solo ricordare, ecco, la presenza di questa tematica e di questa tensione nella tradizione giudaica, per dire poi appunto che anche il cristianesimo ha conservato questa difficile coesistenza della bontà e della giustizia di Dio. Ma, come dicevo prima, questa situazione che noi ancora oggi condividiamo in quanto siamo cristiani è in effetti il risultato di un dibattito che ebbe luogo nel secondo secolo e nel quale la posta in gioco era la possibilità stessa di attribuire il giudizio al Dio di Gesù e dei cristiani. Io non riprenderò naturalmente tutto il dibattito, ma mi propongo di evocare rapidamente con voi quattro voci. Le prime due vengono dal campo che diventerà eretico quando i giochi saranno fatti alla fine del secondo secolo e le altre due dal campo che diventerà ortodosso. La prima di queste voci è quella di Tolomeo, un maestro gnostico attivo intorno alla metà del secondo secolo. Qui lasciamo naturalmente da parte questo fenomeno estremamente complesso che è lo gnosticismo, perché ci interessa un testo il quale era formulato solo come una specie di esposizione preliminare destinata a generare in cristiani non ancora guadagnati alla gnosi una prima riflessione e non a esporre le dottrine tecniche proprie della gnosi. Si tratta di una lettera scritta da Tolomeo a una signora di nome Flora, una signora cristiana certamente di condizione agiata, che gli aveva posto delle questioni relative alla legge di Mosè. È un argomento molto caratteristico di quest'epoca nella quale i cristiani si interrogano a fondo sullo statuto e il valore delle scritture sacre del giudaismo. perché da una parte non possono rinunciare a queste scritture, perché sono quelle che rendono testimonianza a Gesù attraverso la reinterpretazione cristologica della Bibbia ebraica, ma d'altra parte non possono più accettare tutte le prescrizioni della legge, perché tendono a separarsi dalle marche identitarie proprie del giudaismo. E in effetti è molto logico che la discussione sul giudizio di Dio si accompagni a quella sul valore della legge. Cosa dice Tolomeo? Tolomeo per prima cosa nota che la legge promulgata da Mosè non può venire da Dio Padre perché è secondaria, imperfetta e ha avuto bisogno di essere completata dal Cristo quando è venuto. Però non può neanche venire dal diavolo, perché il diavolo è ingiusto e la legge si oppone all'ingiustizia. Inoltre, le parole di Gesù relative a diversi enunciati della legge mostrano che questa legge non viene da un solo autore, ma si divide in tre parti, e queste tre parti risalgono rispettivamente a Dio, a Mosè e agli anziani del popolo. D'altra parte, Tolomeo continua, e qui lo cito, la legge di Dio stesso a sua volta si può dividere in tre parti. La legislazione pura, che non è mescolata al male, e questa è la legge nel senso proprio della parola, che il Salvatore non è venuto a abolire, ma a compiere. Poi c'è la parte mista di male ed ingiustizia, che il Salvatore ha abolito perché non si accordava con la sua natura, e infine si può distinguere una parte tipica e simbolica, destinata a rappresentare lo spirituale e il trascendente, parte che è stata trasposta dal Salvatore, dal sensibile e dall'apparente, allo spirituale e all'invisibile. E qui finisce la citazione. La seconda parte, quella che mescola il giusto e l'ingiusto, è rappresentata, secondo Tolomeo, soprattutto dalla legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, che Tolomeo critica in maniera molto netta e, se vogliamo, anche moderna. Lui dice, non si può negare che sia un comandamento giusto, dato a causa della debolezza dei destinatari della legge. Ma questo non impedisce che si tratti di comandare una seconda ingiustizia non meno colpevole dopo che è stata commessa la prima. Se io uccido qualcuno, commetto un'ingiustizia, se si uccide me, questo può essere anche necessario nell'ordine di questo mondo, ma non impedisce che sia un altro assassinio che si aggiunge al primo. E il Dio che prima ordina non uccidere, e che poi dopo ordina che l'assassino sia ucciso, dice Tolomeo, necessariamente è in contraddizione con se stesso. E, cito ancora una frase di Tolomeo, essendo così all'origine di due assassini, lui che aveva impedito, proibito di compierne uno solo, evidentemente è stato, senza volerlo, vittima della necessità. E fin qui la citazione. Ora, dice Tolomeo, siccome abbiamo mostrato che la legge non viene dal Dio perfetto, che non viene dal diavolo, deve rimontare a un terzo. E questo terzo è il demiurgo, il creatore del mondo, che si situa in una posizione intermedia fra i due. E siccome il Dio perfetto è buono per essenza, il diavolo per essenza è cattivo ed è ingiusto, allora, conclude Tolomeo, colui che si situa tra il Dio perfetto e il diavolo e che non è né buono, ma senz'altro non è neanche cattivo o ingiusto, potrebbe, a giusto titolo, essere chiamato giusto, perché è l'arbitro della giustizia che dipende da lui. Dunque, in questo modo, a partire da una esegesi dell'Antico Testamento, della Bibbia, perché non c'era ancora il Nuovo Testamento, Tolomeo viene così a dedurre l'esistenza di un altro Dio, il quale è appunto il creatore del mondo e l'autore delle parti divine dell'Antico Testamento, del nostro Antico Testamento. La giustizia è l'attributo essenziale di questo Dio, così come la bontà è l'attributo essenziale del Dio Supremo, il Padre di Gesù, e come la cattiveria, la malvagità, è l'attributo essenziale del diavolo. D'altra fonte, noi sappiamo che nel pensiero di Tolomeo stesso la connotazione del creatore era abbastanza positiva. La giustizia che questo creatore esercita è realmente ordinata al bene degli esseri umani, o più esattamente di quelli che non hanno la gnosi, la conoscenza, gnosi che si ha solo per grazia e che salva indipendentemente dalle opere compiute. Dunque questa giustizia che dipende da questo Dio intermedio che ha creato il mondo, questa giustizia si situa al livello più alto che si possa raggiungere in questo mondo. Ma appunto questa stessa giustizia resta limitata, procede a tastoni ed è obbligata ad adattarsi alle circostanze. È soggetta alla necessità, un assassino per rimediare a un assassino, dunque è contraddittoria in se stessa. Se vogliamo è una concezione abbastanza moderna, almeno in potenza, perché quella che noi chiamiamo la modernità sottrarrà la legislazione a un Dio inferiore e che riflette, come rifletteva per Tolomeo, i caratteri di questo mondo, e la modernità attribuirà questa legislazione semplicemente agli umani, agli esseri umani. Ma allora bisogna tirarne tutte le conseguenze, dice Tolomeo, e lo fa. Vale a dire, bisogna recidere ogni legame che collega la giustizia al Dio supremo. Conseguenza, non si potrà mai più fondare in qualunque modo l'esercizio della giustizia in questo mondo sulla volontà del Dio supremo. Non si potrà trovare all'esercizio della giustizia nel mondo una giustificazione religiosa o trascendente. Naturalmente, con Tolomeo non siamo ancora a questo punto, perché i comandamenti della giustizia per lui vengono ancora da un Dio, sia pure da un Dio inferiore, e dunque non sono presentati come un prodotto umano. Questa giustizia ha sempre un'origine extraumana. Ma questa origine, appunto, non si collega al Dio sommo. Chi si collega al Dio sommo, come gli gnostici, in qualche modo può farla meno di questa giustizia, e qui ci saranno poi diverse soluzioni degli gnostici. Ma per chiunque non voglia accettare la soluzione diteista di Tolomeo, cioè un Dio superiore e un Dio inferiore, la sfida era comunque lanciata e non era possibile sottrarvisi. Secondo punto, una critica più radicale della giustizia e del giudizio di Dio è quella che fu elaborata da Marcione di Sinope, che si separò dalla Chiesa a Roma nel luglio del 144. Il confronto tra la Bibbia ebraica da una parte, che Marcione, come sappiamo, rifiutava di interpretare allegoricamente per risolvere i problemi che poneva, e d'altra parte la tradizione evangelica e soprattutto le lettere di Paolo, questo confronto condusse Marcione a concludere che la rivelazione di cui avevano beneficiato gli ebrei era assolutamente incompatibile con il messaggio di Gesù. Gesù aveva rivelato un altro Dio rispetto a quello che aveva ispirato la Bibbia degli ebrei. Il Dio degli ebrei era il creatore del mondo e degli esseri umani, ma come testimonia la sua rivelazione nella Bibbia, è per Marcione un Dio imperfetto, limitato, che si è creato un mondo per esercitarvi il suo potere, che ignora l'esistenza di un altro Dio molto superiore a lui per essenza, e il quale invece non ignora affatto l'esistenza del Dio creatore e del mondo che questo Dio ha creato. Ed è appunto vedendo gli esseri umani schiacciati dalla legge dura, dalla meschinità, dai capricci di questo Dio creatore, che questo altro Dio, essenzialmente buono ed estraneo di per sé agli esseri umani, ha deciso di inviare il proprio figlio, presentatosi come e di fatto la Testamento è quella di Paolo e della tradizione evangelica che possedeva, ecco, questo confronto persuase Marcione che l'essenza del creatore risiedeva nella giustizia, mentre l'essenza del padre di Gesù risiedeva nella bontà. Marcione compose, come sappiamo, un'opera chiamata Antitesi, le Antitesi, un'opera perduta per noi, in cui opponeva sistematicamente i passi della Bibbia ebraica e del messaggio di Gesù che secondo lui si contraddicevano e che in questo modo provavano la distinzione e l'incompatibilità dei due dei. Interpretava, come dicevo, la Bibbia ebraica alla lettera e nel suo insieme la respingeva in quanto rivelazione del Dio giusto, il cui Messia era stato effettivamente annunciato dai profeti, ma non coincideva affatto con Gesù, era ancora da venire, nell'avvenire. Il principio ermeneutico che Marcione utilizzava era l'opposizione paulina tra legge e Vangelo, e Marcione radicalizzava questa opposizione fino ad attribuire le due cose a due dei diversi. Gesù, secondo lui, aveva voluto, appunto, era stato inviato per staccare gli uomini dal Dio che li aveva creati, al quale in teoria legittimamente appartenevano, ma dal quale erano oppressi, per portarli all'altro che nella sua bontà li aveva gratuitamente salvati attraverso il messaggio della morte di Gesù. Non c'è bisogno di dire che era terribilmente difficile per Marcione provare questa concezione che era contraddetta da tutte le fonti. Le parole di Gesù nel Vangelo, come pure le lettere di Paolo, rinviano, lo sappiamo bene, costantemente alla Bibbia ebraica e la considerano una rivelazione di Dio. Marcione selezionò il Vangelo di Luca e 10 lettere paoline, probabilmente non conosceva neanche le pastorane, e le considerò come i testi portatori della vera dottrina del Cristo. Però, siccome contenevano evidentemente dei riferimenti positivi alla Bibbia ebraica, ecco, si convinse che questi scritti, sotto la forma in cui erano stati trasmessi a noi e a noi anche, erano riempiti di interpolazioni inserite da falsi fratelli, come dice, cioè da cristiani giudaizzanti, i quali non avevano capito o comunque non volevano riconoscere la separazione del Padre di Gesù e del Dio degli ebrei, e i quali si erano sforzati di reintrodurre nel genuino messaggio di Gesù questa schiavitù dei credenti sotto il Dio creatore. Marcione, dunque, con l'aiuto di correzioni e soprattutto di soppressioni, procedette a stabilire quello che secondo lui era stato il testo puro delle lettere di Paolo e del Vangelo di Luca, cioè esente da ogni rinvio positivo al Dio creatore e alla sua rivelazione. Ecco, questa connotazione di questi due dei, rispettivamente con la giustizia e con la bontà, ci ricorda quella che abbiamo visto per Tolomeo nella lettera a Flora. Ma a differenza di Tolomeo, Marcione valutava la giustizia del Dio creatore, come pure in generale la creazione realizzata da questo Dio nel nostro mondo, li valutava in maniera decisamente negativa. Secondo Marcione, questa giustizia, che è sempre una giustizia forense, cioè una giustizia formale, quella che rende il bene per il bene e il male per il male, non bisogna confonderla con la concezione paolina, appunto, della giustizia, ecco, questa giustizia non era stata espressa nell'Antico Testamento dal Creatore per servire l'uomo, per il bene dell'uomo, ma per il bene del Dio che l'aveva stabilita. Questo Dio che dà dei comandamenti al fine di esercitare il proprio potere. E questo è il senso della gelosia che questo Dio prova per tutto quello che potrebbe elevarsi accanto a sé. Quando nel Dio della Bibbia ebraica dice io sono l'unico e nessun altro accanto a me, questo per, e dice io sono un Dio geloso, questo Marcione lo prende alla lettera e dice questo Dio ha paura che un altro Dio si elevi accanto a lui. Questo significa che ha delle paure, che è limitato, che non è abbastanza sicuro di se stesso, ma che vuole esercitare il suo potere sugli uomini, li ha creati apposta per questo. E d'altra parte Marcione sottolineava che Dio stesso dichiara, Isaia 45,7, sono io che creo i mali. Se fu per esempio per invidia, Marcione dava tutta una lettura, e purtroppo le sue opere sono perse, abbiamo solo un'informazione frammentaria, ma dava una lettura della storia biblica appunto al rovescio, se volete. Per invidia Dio proibì all'uomo l'albero della vita, e poi il peccato di Adamo provò che questo Dio non era né buono, né poteva prevedere il futuro, né potente, e che al tempo stesso non era stato capace di creare un uomo che non fosse debole e mortale. Perché se Dio avesse potuto prevedere il peccato di Adamo, dice Marcione, lo avrebbe fatto, evidentemente non lo prevedeva, e non era capace neanche di evitarlo. È anche un Dio che si diverte a provocare delle guerre, la Bibbia è piena di guerre. Accanto alle scritture che testimoniano l'imperfezione di questo Dio, lo stesso fa la sua creazione, piena di miserie, di esseri inutili, di esseri fastidiosi, grotteschi, senza parlare per Marcione del corpo umano, meschino, miserabile, e delle circostanze impure e disgustose della concezione del concepimento e del parto. evidentemente siamo in presenza di una reazione quasi patologica alla materia, però questo non deve impedirci di cogliere l'aspetto serio della critica teologica di Marcione e soprattutto riguardo al tema che ci interessa qui. Secondo Marcione, la rivelazione degli ebrei ci mette in presenza di un Dio il quale è Dio solo per la sua potenza, perché è capace di creare un universo degli uomini e di tenerseli sottomessi, imponendo loro una legge e castigando spietatamente quelli che cercano di sfuggirvi. Questa giustizia quindi è puramente formale, riguarda l'osservanza o la trasgressione di norme stabilite non sulla base di un'equità reale, non sulla base di un'idea del bene universale, ma sulla base dell'arbitrio del sovrano, come del resto era il caso ampiamente nella politica del mondo orientale antico. Ecco, questa giustizia, che per Tolomeo è abbastanza positiva, indifferente per quanti hanno la gnosi, ma insomma necessaria per la salvezza di quelli che non ce l'hanno, viene smascherata bruscamente da Marcione come una mistificazione, una norma arbitraria e brutale che non può essere giustificata sul piano dell'etica, ma il cui solo risultato per gli esseri umani è sofferenza e infelicità. Ecco. Ci si rese immediatamente conto, nel dibattito cristiano del secondo secolo, che il posto in gioco era cruciale. L'accettazione o il rifiuto di Dio giudice significavano delle forme di cristianesimo radicalmente diverse. La seconda metà del secondo secolo è piena di scritti diretti contro Marcione, purtroppo per noi quasi tutti perduti. Invece ci restano cinque libri che il Regno di Leone compose contro le eresie verso il 180-190. Contro Marcione, il quale rifiuta di ammettere che Dio può essere buono e al tempo stesso giudicare, vale a dire condannare e punire, Ireneo afferma che già nel suo primo atto di giudizio in questo mondo Dio ha mostrato al tempo stesso la sua giustizia e la sua misericordia. Dopo il loro peccato, Adamo ed Eva furono condannati a subire dei castighi, i quali castighi restarono nei loro discendenti. Però, dice Ireneo, Dio non maledisse l'uomo ma la terra che l'uomo avrebbe dovuto lavorare, nonché il serpente, cioè, secondo l'interpretazione corrente, il diavolo. In questo modo, dice Ireneo, non essendo maledetti da Dio, non sarebbero morti in maniera definitiva e d'altra parte non restando impuniti non avrebbero potuto disprezzare Dio. Più avanti, aggiunge Ireneo, se Dio è giustiziero, se esercita la giustizia, ma senza essere al tempo stesso buono per perdonare a coloro ai quali lo deve e rimproverare solo quelli che lo meritano, allora apparirà come un giudice senza giustizia né saggezza. Inversamente, se è solo buono, senza anche essere esaminatore di coloro che vuol far beneficiare della sua bontà, sarà al di fuori ancora una volta della giustizia come della bontà. E questa bontà stessa apparirà impotente, non salvando tutti gli uomini, se si esercita senza un giudizio, perché ci sono quelli che non si salvano. Inoltre, dice Ireneo, se Dio non giudica, a tutti gli uomini sarà assegnata una posizione identica, il che rende superfluo la venuta del Cristo. Perché, secondo il Vangelo stesso, dice Ireneo, questa venuta è propria a operare un giudizio e a separare i credenti dagli increduli. Qui naturalmente Ireneo si ispira soprattutto a dei passi del Vangelo di Giovanni, dove il giudizio consiste appunto nella scelta operata dall'uomo di fronte a Gesù, per o contro la luce. Ma quello che è molto significativo è che per Ireneo questa scelta degli uomini non realizza il giudizio, come era il caso nel Vangelo di Giovanni, ma lo condiziona. Il giudizio propriamente detto si compirà sul fondamento della scelta che è stata fatta solo alla parusia, al ritorno di Cristo. E questo è diverso dalla prospettiva del capitolo terzo del Vangelo di Giovanni, dove il giudizio consiste appunto nella scelta degli uomini e non è presentato come un atto giudiziario del Signore che punisce gli uomini in seguito alla scelta che hanno fatto. Per quanto per il poco che si può vedere di lui, Marcione sarebbe stato non lontano dalla prospettiva giovannia, il quale affermava che il peccatore, per così dire, sarà respinto dagli occhi del Dio buono, e cioè si staccherà da solo, rinuncerà da solo alla salvezza del Dio buono e quindi si lascerà risucchiare dal fuoco del Creatore. In realtà, come vediamo, questa polemica sulla giustizia di Dio ha il suo fondamento in una concezione della giustizia come facoltà di giudicare e di conseguenza facoltà di ricompensare o di punire. La preoccupazione di Ireneo è che senza castigo gli uomini potrebbero peccare tranquillamente. Ben inteso, Ireneo non tiene tanto alla sofferenza del peccatore, ma piuttosto al destino del giusto, il quale allora non trarrebbe nessun vantaggio dal fatto che lui ha obbedito a Dio e l'altro no. Questo Dio, allora, dice Ireneo, risulterebbe impotente, incapace di ricompensare il credente. La questione della giustizia di Dio, dunque, implica quella della sua potenza. Solo il giudizio, cioè la facoltà di esercitare il giudizio, può evitare alla bontà divina un'accusa di impotenza dovuta al fatto che non tutti gli uomini si salvano. Ed è qui, credo, che abbiamo una delle opzioni cruciali di Ireneo e degli altri autori ortodossi, nel senso ecclesiale, riguardo alla giustizia di Dio. Ireneo non può rinunciare alla giustizia di Dio perché non può rinunciare a un Dio potente e che esercita il suo potere. Quello che lo irrita nei suoi avversari, e in particolare i Marcioni, è, come dice, vogliono togliere al padre il potere di rimproverare e di giudicare. E se ho detto che si tratta di un'opzione cruciale, è perché, se vogliamo, mette in prospettiva, respingendola sullo sfondo, l'altra alternativa che era pure data, e cioè quella di privilegiare appunto il Dio che rinuncia alla sua potenza nella umanità di Gesù, e che in questo modo accetta in Gesù, nella morte di Gesù, questo disprezzo che Ireneo considerava incompatibile con la dignità di Dio, là dove Ireneo giustifica, come abbiamo visto, il castigo di Adamo ed Eva. Ora Marcione, da parte sua, sembra invece bene avere ammesso che il Dio buono ha rinunciato all'esercizio della sua potenza di fronte al creatore, consegnando il proprio figlio alla rabbia e alla vendetta del creatore perché il suo messaggio d'amore possa essere annunciato agli uomini. E se il credente marcionita si astiene dal peccato, questo non dipende dalla paura del castigo giusto, ma dal fatto che è talmente preso, avvolto dalla bontà del suo Dio che non può nemmeno concepire la possibilità di staccarsi da lui, secondo Marcione. Certo, di fronte al diteismo marcionita, alla separazione dei dei che era inaccettabile per la tradizione cristiana, Ireneo si trovava obbligato a recuperare il Dio della Bibbia, un Dio che senza dubbio esercita la sua potenza, che giudica, che castiga. Però dobbiamo essere coscienti che questa scelta, ecco, aveva delle conseguenze. Salvaguardando il potere di Dio sulla storia come qualcosa che è manifesto, che si può constatare, che è visibile, Ireneo non si obbliga solo a un ottimismo storico a ogni costo, ma per quanto ci riguarda qui è anche addotto a ammettere che la giustizia esercitata dalle autorità di questo mondo è in qualche misura un riflesso della giustizia divina. Ed è quello che fa là dove spiega come una menzogna l'affermazione del diavolo nella tentazione di Gesù, dove il diavolo dice tutto questo, cioè tutte le potenze di questo mondo mi sono state date e io le do, tutte le ricchezze di questo mondo mi sono state date e le do a chi voglio. Commentando Romani 13, uno seguente, il passo sulle autorità istituite da Dio in Paolo, Ireneo spiega che dopo la sua separazione da Dio l'uomo cadde in un tale stato di selvatichezza che Dio gli impose il timore degli umani, perché non conoscevano più il timore di Dio, affinché, soggetti a un'autorità umana e educati dalle sue leggi, gli uomini potessero giungere a una certa giustizia e usassero la moderazione gli uni verso gli altri, tenendo la spada messa ostensibilmente sotto i loro occhi. Quindi si tratta, quello delle autorità di questo mondo, di una funzione sostanzialmente negativa. Ma appunto questo fatto mostra che, seppur è fatta per i pagani, sostituisce presso i pagani gli effetti sociali della fede presso i cristiani, e dunque che l'esercizio delle autorità di questo mondo si situano nella stessa linea della volontà di Dio. E veniamo adesso a il quarto autore, ecco, che voglio prendere in considerazione, che è Tertulliano di Cartagine, il quale, come è ben noto, confutò lungamente e con veemenza Marcione in un trattato in 5 libri composto in latino, la cui redazione definitiva, perché ce ne furono 3 di cui le 2 prime sono perdute, deve risalire agli anni 207-212. Ecco, Tertulliano si scaglia contro questa bontà che Marcione considera come la caratteristica essenziale del Dio supremo, escludendo la giustizia. Perché afferma Tertulliano riprendendo d'altronde un'idea della teologia stoica, questo Dio non può ammettere in sé qualcosa che non sia razionale, se è Dio non può essere irrazionale, di conseguenza anche la sua bontà non potrà essere irrazionale. Ora, secondo Tertulliano, la bontà del Dio Marcione, del Dio di Marcione è doppiamente irrazionale. Primo, perché si dirige immediatamente sull'estraneo, mentre il precetto di amare i nemici e gli stranieri, secondo Tertulliano, rappresenta lo sviluppo del precetto dell'amare il proprio prossimo. Ora, siccome gli uomini che noi siamo non sono stati creati da questo Dio, ma da un altro, e sono stranieri al Padre di Gesù, il Dio di Marcione non ha esseri umani che gli appartengano, da amare prima poi di volgere il proprio amore verso gli stranieri. Ma è la seconda ragione che ci interessa di più. Dice Tertulliano, lo cito, la bontà nei confronti di stranieri sarà razionale solo se si esercita senza ledere ingiustamente il proprietario dell'oggetto sul quale si esercita. Qualunque bontà è prima di tutto la giustizia che la rende razionale. Esercitandosi a vantaggio di estranei potrà sembrare razionale solo a condizione di non essere ingiusta. Del resto, che cosa vale una bontà che si fonda sull'ingiustizia e per di più a beneficio di uno straniero? Forse, sempre a citazione di Tertulliano, si potrebbe considerare razionale in certa misura una bontà che commettesse l'ingiustizia in favore di qualcuno che appartiene alla sua casa, ma in favore di un estraneo al quale legittimamente non si deve nemmeno una bontà di stretta onestà. Con quale ragione si potrà difendere come razionale una bontà così ingiusta? Che cosa in effetti c'è di più ingiusto? Che cosa di più iniquo e di più disonesto che far del bene a uno schiavo estraneo, togliendolo al suo padrone, reclamandolo per un altro, subornandolo contro la vita del suo padrone? E questo precisamente a maggiore indegnità quando lui è ancora nella casa del suo padrone, i cui granai lo fanno vivere e i cui colpi lo fanno ancora tremare. Una simile rivendicazione alla libertà sarebbe condannata nella società, a più forte ragione un simile furto di schiavi. Continua Tertulliano, il Dio di Marcione non agisce diversamente, fa irruzione in un mondo straniero, strappa l'uomo al suo Dio, il figlio al suo padre, l'allievo al suo educatore, il servitore al suo padrone, per renderlo empio verso il suo Dio, irrispettoso verso il suo padre, ingrato verso il suo educatore e mascalzone nei confronti del suo padrone. Fine della citazione di Tertulliano. Facilmente riconosciamo quello che è in gioco in questo dibattito. Una bontà razionale è qualcosa che corrisponde a certi criteri del razionale che sono considerati validi nelle relazioni umane. Qui non è la bontà assoluta e radicale di Dio che serve da orizzonte e da faro, sia pure irraggiungibile, alla bontà necessariamente limitata degli esseri umani. È l'inverso. Sono le condizioni considerate ideali per la bontà umana che sono imposte a Dio. L'assoluto, per cui viceversa, è la relazione di proprietà che lega l'uomo a Dio. Colui che ha creato l'uomo è anche il padrone, l'uomo è il suo schiavo. La risposta dei Marcionetti sarebbe stata facile. Questo creatore ha talmente mal governato l'uomo che l'ingiustizia è dalla sua parte, non dalla parte di colui che gli toglie le sue vittime. Ma Tertulliano, con i suoi confronti, sottolinea ulteriormente che non può considerare le relazioni tra Dio e l'uomo se non dal punto di vista del modello delle relazioni terrene tra coloro che sono dotati di un potere, il padre, l'educatore, il padrone, e quelli che sono soggetti a questo potere, il figlio, lo scolaro, lo schiavo. La parola dominus, corrente evidentemente per Dio, riprende qui tutta la sua forza etimologica. Ed è esplicito in un altro passo in cui Tertulliano esce veramente dai gangheri davanti all'idea Marcionita che Dio non vuole e non deve essere temuto. Secondo Tertulliano, i Marcioniti affermano: temeremo un Dio cattivo, ma ameremo un Dio buono. Risposta di Tertulliano: insensato, quello che tu chiami Signore, Dominus, no? Tu non vedi che sia da temersi? Questo nome non designa forse un potere e un potere da temere? O come amare senza timore di non amare? Senza dubbio, per te lui non è per te non un padre a cui spetta l'amore per sentimento filiale e il timore per rispetto della sua potenza, né un padrone legittimo che tu devi amare per umanità e temere per disciplina, perché sono i falsi padroni che sono l'oggetto di questa sorta di amore esente da timore. sarà in effetti tenuto soltanto il potere di un padrone che sia giusto e conforme all'ordine, iusta et ordinaria dominatio. Può essere amato anche se è un falso padrone, perché allora si afferma per seduzione, non per autorità. Fine della citazione. Una volta che abbiamo eliminato il timore di Dio, Tertulliano insiste, la via è aperta al zampillare di tutti i piaceri. I Mercioniti precisano la sorte del peccatore all'ultimo giorno, sarà respinto come lontano dalla presenza del loro Dio. Allora, dice Tertulliano, questo forse non è l'effetto di un giudizio, perché il giudizio pronuncia che deve essere respinto, è sicuramente un giudizio che porta condanna. D'altra parte, questo Dio di Marcione propone, dice Tertulliano, una sua morale, la quale è anche più rigorosa di quella della grande Chiesa. Ora, non ha senso, dice Tertulliano, stabilire dei comandamenti senza prevedere castighi per quelli che non li rispetterebbero. E poi, sillogizza Tertulliano, se non c'è vendetta, non c'è collera. Assenza di collera indica assenza di offesa, dunque non c'è volontà offesa. Di conseguenza, il male che è compiuto non è contrario alla volontà di Dio perché non lo offende. Insomma, conclude Tertulliano, se per Dio è cosa indegna giudicare, o se è degno di lui giudicare solo nella misura in cui si contenta di non volere e di proibire, senza punire anche il delitto commesso, no, niente è così indegno di Dio come non perseguire l'atto che lui non ha voluto e che ha proibito di commettere. In primo luogo, perché deve la proibizione deve essere unita a una sanzione che ne assicura l'autorità e che rende necessaria l'obbedienza. E in secondo luogo, perché inevitabilmente deve provocare l'opposizione di Dio, ciò di cui Dio non ha voluto che si compiesse e di cui ha proibito l'esecuzione. Sarebbe più indegno di Dio risparmiare il male che punirlo, soprattutto quando si tratta di un Dio tanto buono e che potrebbe essere completamente buono solo se fosse nemico del male. Fine della citazione. Dunque, come vediamo, sono qui in presenza e in concorrenza fra loro due modelli di relazione tra Dio e gli esseri umani. Mi sembra che dietro questi due si trovi sempre lo stesso grande problema, il problema dell'opposizione di Dio al male, però riceve delle soluzioni opposte. In effetti, per Marcione, il male è il risultato di un atteggiamento del Dio creatore di questo mondo, cioè del fatto che Dio che ha creato il mondo vuole esercitarvi senza limiti il proprio potere, mettendo questo potere al di sopra degli interessi della creatura. E così, schiacciato, irritato, tentato dal suo creatore, l'uomo non ha la forza di evitare la trasgressione della legge che gli è imposta, e la quale legge non rispetta altro che l'arbitrio di questo suo autore limitato e malevolo, un tiranno in cui l'estensione del potere non si accompagna alla perfezione che sola caratterizza il vero Dio. Il giudizio che colpisce l'uomo in seguito alle sue colpe può essere allora soltanto una giustizia travestita da giustizia. Non si potrà, secondo Marcione, sradicare il male senza sradicare questa giustizia, o meglio, ogni giustizia retributiva, perché chi rende il male per il male non sfugge alla logica infernale dell'iniquità, donde l'eliminazione radicale della giustizia e del giudizio nel Dio che salva, nel Dio Padre di Gesù. Non solo ogni trasgressione della legge del Creatore naturalmente è del tutto indifferente a quest'altro Dio, perché non lo riguarda, ma non è un'altra legge da proporre, non ancora da imporre. Certo, nel momento in cui il credente si apre alla rivelazione di Gesù, il Creatore è già giudicato con tutte le sue opere e i suoi precetti, ma non è un giudizio fondato su una legge posta dal Padre di Gesù. Il Dio buono, per quanto possiamo constatare, non realmente opera nessuna sanzione, nessuna costrizione e nessuna minaccia. Consegna semplicemente il proprio figlio alla rabbia del Creatore affinché gli uomini possano riceverne il messaggio, questo messaggio che Marcione considerava del resto oscurato finché lui non lo ha riscoperto. Per Tertulliano, invece, il male non viene affatto dal Creatore, ma dall'uomo e dal diavolo che fa peccare l'uomo. Non solo dunque non c'è nessun rapporto tra il male e l'esercizio del potere divino, ma questo potere e il suo esercizio sono precisamente la condizione necessaria perché il male sia vinto. Un Dio che non giudica, per Tertulliano, è un Dio indegno perché non si prende responsabilità. ci vuole un Dio potente per controbilanciare questo avversario potente che è Satana. E solo affermando la sua presa sul mondo creato che Dio potrà sbarrare la strada al male. Il giudizio si iscrive in questa prospettiva, è la testimonianza che Dio si oppone al male. Un Dio che non giudica lascia la porta aperta al peccato, secondo Tertulliano. Insomma, è un Dio indegno, che non si preoccupa in realtà degli uomini. E non è per caso che Tertulliano accusa Marcione e lo cito di decorare del nome di Cristo un Dio preso in prestito alla scuola di Epicuro, perché l'essere beato e incorruttibile non crea fastidi né a se stesso né ad altri. La funzione giudiziaria è quindi solo la condizione di un esercizio ordinato della bontà, perché è la constatazione della buona condotta o del pentimento che conduce Dio a mostrare all'uomo la sua bontà. Ed è per questa ragione, obietta Tertulliano a Marcione, e lo cito, considerandolo come giudice, tu dai a intendere che all'occasione è l'economo della sua bontà, e non il dissipatore, titolo che tu rivendichi per il tuo Dio. Quindi il Dio di Marcione, secondo Tertulliano, dissipa, butta via la sua bontà. Certo, ci si potrà domandare se Paolo non facesse di Dio un dissipatore della sua bontà quando osservava Romani 5,8 Cristo è morto per noi quando eravamo ancora peccatori. Senza dubbio la giustizia di Dio in Paolo non è davvero la stessa cosa che in Tertulliano. Ma la lettura di Paolo, sostenuta dagli avversari degli gnostici e di Marcione, è finita con imporsi, con il trionfo di questa chiesa che aveva eliminato l'altra. Gli ultimi gnostici e i marcioniti furono perseguitati, lo sappiamo, al IV secolo in Oriente dall'impero diventato cristiano e che aveva bisogno di un cristianesimo unito e ben articolato al potere politico e non di gruppi così critici verso le realtà terrestri e verso l'esercizio della giustizia. Ho fatto riferimento alle implicazioni politiche della posizione di Ireneo e di Tertulliano e molti studi hanno illustrato, specialmente negli ultimi decenni, in quale misura l'annosi implicasse una critica alla gestione del potere politico e a questa coesione sociale che l'impero si sforzava disperatamente di salvare. Questo sfondo di inquietudini sociali e politiche può anche aiutarci a comprendere perché tutti i partecipanti al dibattito vedono nella giustizia divina una giustizia forense, una giustizia puramente retributiva. È questa che hanno rifiutato gli gnostici e Marcione nel contesto di una prospettiva diteista duramente critica nei confronti di ogni istituzione terrena. Ed è questa stessa giustizia che i loro avversari hanno invece difeso per il cristianesimo dell'avvenire e per le istituzioni alle quali questo cristianesimo si è di volta in volta prestato come ideologia. Naturalmente, l'idea che la giustizia di Dio non è diversa dalla sua misericordia che giustifica l'essere umano peccatore, questa idea, già centrale nella Bibbia ebraica e nella tradizione ebraica, che ne dica Paolo, come pure a suo seguito Marcione e la maggior parte degli studiosi moderni, questa idea non è stata perduta nella storia del cristianesimo. Ma resta vero, secondo me, che questa storia è stata profondamente segnata dalla concezione del giudizio divino che è uscita trionfante da questo dibattito drammatico e cruciale del secondo secolo. Grazie.